La casa sulla collina. In un angolino, all'estremità della valle dell'Arcobaleno, vicino alla palude, c'era una conca nascosta dalle betulle, dove si trovava una piccola ma costante sorgente, dalle acque sempre gelide come il ghiaccio, eppure come il cristallo. Non erano in molti a essere al corrente della sua esistenza. I bambini della canonica e quelli di Ingleside ovviamente lo erano, perché conoscevano tutto di quella loro magica valle. Ogni tanto andavano lì per bere e in molti dei loro giochi quel posto diventava l'antica fonte di qualche romanzo. Anche Anna la conosceva e l'amava perché le ricordava un po' la dorata sorgente delle Driadi di Green Gables. Un'altra persona che sapeva della sorgente era Rosemary West e anche per lei rappresentava una romantica fonte. 18 anni prima, seduta proprio lì durante un tramonto primaverile, aveva ascoltato Martin Crawford balbettare la sua appassionata dichiarazione di giovane amore e gli aveva sussurrato a sua volta il suo segreto. Vicino a quella selvaggia sorgente di bosco si erano baciati e si erano scambiati le loro promesse. Non c'erano mai ritornati insieme. Non molto tempo dopo Martin era partito per il suo viaggio fatale, ma per Rosemary West era rimasto un luogo sacro, reso tale da quell'ora immortale di giovinezza e amore. Ogni volta che si trovava nei dintorni passava di là, come per un segreto appuntamento con un vecchio sogno, dal quale ormai ogni dolore era svanito, lasciando solo un'indimenticabile dolcezza. La sorgente era ben nascosta, si poteva passare a 3 metri di distanza e non sospettare nemmeno della sua esistenza. 2 generazioni prima ci era caduto sopra un vecchio pino, del quale non era rimasto più nulla se non il tronco spezzato da cui crescevano rigogliose le felci che creavano sopra l'acqua un tetto verdeggiante e un sipario frangiato. Proprio accanto c'era un acero dal tronco curiosamente ricurvo e nodoso che si protendeva sul terreno per un po' prima di levarsi alto verso il cielo formando un pittoresco trono. Quel settembre, inoltre, tutto intorno alla conca era cresciuta una striscia di asteri azzurrini. Una sera John Meredith decise di passare per i campi e tagliare dalla valle dell'Arcobaleno per tornare a casa dopo una serie di visite pastorali all'estremità della baia e si fermò a bere dalla sorgente. Era stato Walter Blythe a fargliela vedere un pomeriggio di pochi giorni prima e i due avevano fatto una lunga chiacchierata seduti sull'acero. Sotto tutta la timidezza e la goffaggine, John Meredith aveva il cuore di un bambino. Da ragazzo il suo soprannome era stato Jack, anche se nessuno a Glen St. Mary ci avrebbe mai creduto. Lui e Walter si erano trovati subito a loro agio, avevano parlato con sincerità e senza riserve. Il signor Meredith era riuscito a penetrare nelle stanze più sacre e segrete dell'animo del ragazzo, dove nemmeno Dee aveva mai messo piede. Da allora erano diventati amici e Walter non si era più sentito intimorito dal pastore. «Non pensavo che si potesse davvero diventare amici di un pastore», aveva detto a sua madre quella sera. John Meredith beve dalla mano candida e snella, la cui stretta d'acciaio sorprendeva sempre chi non lo conosceva, e poi si sedette qualche istante sull'acero. Non aveva fretta di tornare a casa. Quel luogo era bellissimo e la sua mente era stanca dopo una lunga serie di conversazioni non molto stimolanti, con gente tanto buona quanto sciocca. La luna stava sorgendo nel punto in cui si trovava la valle dell'Arcobaleno, era battuta dal vento e sorvegliata dalle stelle. Ma dall'estremità opposta giungevano le allegre note delle risate e delle voci dei bambini. La bellezza eterea degli aster al chiaro di luna, lo scintillio della piccola sorgente, il mormorio dolce del ruscello e l'ondeggiare armonioso delle felci creavano una sorta di magia bianca tutto intorno a John Meredith. Il pastore dimenticò le preoccupazioni della sua congregazione e i problemi spirituali. E gli anni gli scivolarono di dosso. Era di nuovo un giovane studente di teologia e le rose di giugno sbocciavano rosse e profumate sulla chioma scura e regale della sua Cecilia. Rimase lì a fantasticare come un bambino e fu proprio in quel momento che Rosemary West si allontanò dal sentiero e si ritrovò di fronte a lui in quel luogo di pericoloso incanto. John Meredith si alzò in piedi e la vide veramente per la prima volta. L'aveva già incontrata in chiesa un paio di volte, le aveva stretto distrattamente la mano, come faceva con tutti quelli che gli capitava di incontrare mentre percorreva la navata, ma non l'aveva più vista altrove perché i West erano episcopali e legati alla parrocchia di Lowbridge e lui non aveva mai avuto occasione di far loro visita a casa. Per Prima di quella sera, tuttavia, se qualcuno avesse chiesto a John Meredith che aspetto avesse Rosemary West, lui non ne avrebbe avuto la più pallida idea. Ma ora, dopo che gli era apparsa nello splendore di quel chiaro di luna presso la sorgente, non l'avrebbe più dimenticata. Di certo non assomigliava per nulla a Cecilia, che aveva sempre rappresentato i suoi ideali di bellezza femminile. Cecilia era minuta, mora e vivace. Rosemary era alta, bionda e tranquilla, eppure John Meredith pensò che non aveva mai visto una donna così bella. Non portava il cappello e i suoi capelli dorati, di un caldo color oro o caramello, come li aveva definiti Dee, erano raccolti in alto sulla testa in morbide ciocche. Rosemary aveva due occhi azzurri grandi e placidi che parevano sempre affettuosi, la fronte alta e i lineamenti delicati ed eleganti. Tutti l'avevano sempre definita una donna dolce e lo era al punto che nemmeno il suo portamento nobile e altero le aveva mai fatto guadagnare la reputazione di essere una piena di sé, come sarebbe inevitabilmente accaduto a qualsiasi altro abitante di Glen St. Mary. La vita le aveva insegnato a essere coraggiosa e paziente, ad amare e a perdonare. Aveva visto la nave con a bordo il suo amore salpare dal porto di Four Winds diretta verso il tramonto, ma per quanto a lungo fosse rimasta a guardare, non l'aveva mai più vista ritornare. Quella veglia aveva strappato la fanciullezza dai suoi occhi, ma altrove lei aveva conservato meravigliosamente la sua gioventù. Forse era perché sembrava avere ancora quell'atteggiamento di squisita sorpresa nei confronti della vita che la maggior parte della gente si lascia alle spalle finita l'infanzia. Un atteggiamento che non solo la faceva sembrare più giovane, ma suscitava una piacevole illusione di gioventù nell'animo di tutti coloro che le parlavano. John Meredith rimase sbalordito dalla sua bellezza, tanto quanto Rosemary lo fu dalla sua presenza. Non pensava di poter mai trovare qualcuno vicino a quella sorgente così nascosta, tantomeno l'inquilino della canonica di Glen St. Mary. Per poco non fece cadere la pesante pila di libri che stava portando a casa, presi in prestito alla biblioteca di Glen. Poi, nel tentativo di mascherare la propria confusione, tirò fuori una di quelle sciocchezze che persino alle migliori tra le donne capita spesso di dire. «Sono venuta a bere», disse balbettando lievemente, in risposta al solenne «Buonasera, signorina West» del signor Meredith. Si sentì una sciocca e tentò subito di riprendersi. John Meredith, tuttavia, non era un uomo vanitoso e sapeva bene che Rosemary sarebbe stata altrettanto sbalordita se avesse trovato Abraham Clow in quel luogo inaspettato. La sua confusione in realtà lo mise a suo agio, al punto da fargli dimenticare di essere timido. Ma talvolta, al chiaro di luna, persino i più timidi tra gli uomini riescono a essere audaci. «Le prendo un bicchiere, allora», rispose sorridendo. In verità c'era una tazza a portata di mano. Se lui solo l'avesse saputo, una vecchia tazza azzurra sbeccata e senza più il manico, nascosta sotto l'acero dai bambini della Valle dell'Arcobaleno. Ma il signor Meredith non lo sapeva, perciò si avvicinò a una delle betulle, staccò un pezzo di corteccia bianca, la modellò abilmente in una ciotola triangolare, la riempì d'acqua e la porse a Rosemary. Lei la prese e beve fino all'ultima goccia. Fu una sorta di punizione per la sciocchezza che aveva detto perché non aveva affatto sete e bere un'abbondante tazza d'acqua quando non si ha sete è un vero e proprio tormento. Eppure il ricordo di quella bevuta sarebbe rimasto molto caro a Rosemary negli anni a venire. Vi avrebbe riconosciuto una sorta di sacralità, forse per via di ciò che il pastore fece quando lei gli restituì la tazza. Si chinò a riempirla di nuovo e beve a sua volta, e per puro caso posò le labbra nel punto esatto in cui Rosemary aveva posato le proprie, e lei se ne accorse. Nella sua mente quel gesto assunse un particolare significato. Avevano bevuto dalla stessa tazza. Ricordò vagamente quel che diceva una sua vecchia zia, ovvero che quando due persone facevano una cosa del genere, le loro vite future erano destinate a intrecciarsi nel bene o nel male. John Meredith si rigirò in mano la tazza, incerto su cosa farne. La logica avrebbe suggerito di buttarla via, ma per qualche motivo non voleva farlo. A quel punto Rosemary tese la mano. «Posso averla?» disse. «È stato così ingegnoso. Non vedevo qualcuno fare una tazza con la corteccia di betulla da tanto tempo, da quando lo faceva mio fratello piccolo prima che morisse». «Io ho imparato quando ero ragazzo. Un'estate andai in campeggio e un vecchio cacciatore me lo insegnò», disse il signor Meredith. Lasci che l'aiuti a portare quei libri, signorina West. Colta di nuovo alla sprovvista, Rosemary blaterò che non erano pesanti, ma il pastore glieli prese con fare autorevole e si incamminò insieme a lei. E per la prima volta Rosemary passò dalla sorgente della valle senza pensare a Martin Crawford. L'incantesimo di quell'appuntamento segreto era stato infranto. Il sentierino che imboccarono girava intorno alla palude e poi si inerpicava sull'alta collina boscosa in cima alla quale si trovava la casa di Rosemary. Al di là di quella, tra i rami degli alberi, si intravedeva il chiaro di luna che brillava sugli immobili campi estivi. Il sentiero era angusto e in penombra, su di esso incombevano gli alberi che quando cala il sole non sembrano più così amichevoli nei confronti degli umani quanto lo sono di giorno. Si fanno distanti, sussurrano e complottano furtivi e se tendono un ramo verso qualcuno, il loro tocco è ostile e titubante. Le persone che di notte camminano tra gli alberi si stringono d'istinto le une alle altre, come in un'alleanza fisica e mentale contro le forze sconosciute che li circondano. L'abito di Rosemary sfiorava John Meredith mentre camminavano, e nemmeno il più distratto dei pastori, il quale dopo tutto era ancora un uomo giovane, sebbene si fosse convinto di aver chiuso con le romanticherie, poteva restare insensibile di fronte al fascino di quella notte, del sentiero e della compagnia. È sempre rischioso pensare che la vita non abbia più nulla da dire. Proprio quando crediamo che la nostra storia sia ormai conclusa, il destino, come per magia, volta una pagina e ci mostra l'inizio di un altro capitolo. Entrambi i viandanti erano convinti che il loro cuore appartenesse irrevocabilmente al passato, eppure entrambi trovarono quella passeggiata su per la collina molto piacevole. Rosemary pensò che il pastore di Glen non era per niente timido e di poche parole come gliel'avevano descritto, anzi, le sembrava che chiacchierasse liberamente e speditamente, senza alcuna difficoltà. Le casalinghe di Glen sarebbero rimaste stupefatte se l'avessero sentito, ma il punto era che tante di loro parlavano solo di pettegolezzi o del prezzo delle uova, due cose per le quali John Meredith non nutriva alcun interesse. Con Rosemary chiacchierò di libri e di musica e di quel che succedeva nel vasto mondo e un po' anche di se stesso e scoprì che lei lo comprendeva e sapeva rispondergli. Venne fuori che Rosemary aveva un libro che il signor Meredith non possedeva e desiderava molto leggere. Si offrì di prestarglielo e quando giunsero alla vecchia casa in cima alla collina, lui entrò per prenderlo. La casa era un'abitazione all'antica, di pietra grigia, ricoperta di rampicanti attraverso i quali la luce faceva amichevolmente capolino nel salotto. Affacciava su Glen e sulla baia argentea al chiaro di luna, sulle dune e sull'oceano che mormorava. Entrarono passando dal giardino che sembrava sempre profumare di rose anche quando non erano in fiore. Ad accoglierli al cancello c'era un'aiuola di gigli e una striscia di aster fiancheggiava entrambi i lati dell'ampio vialetto. Oltre la casa c'era una fila di abeti, simile a un merletto che correva lungo tutto il limitare della collina. Qui può guardare tutto il mondo dalla soglia di casa, disse John, con un gran sospiro. Che vista, che panorama! A volte mi sento soffocare giù a Glen, e qui invece si respira. Stasera il tempo è tranquillo, disse Rosemary ridendo. Se tirasse vento le toglierebbe il fiato. Qui abbiamo tutte le brezze che il vento è capace di soffiare. Secondo me è per via di questo posto che la baia ha preso il nome di Four Winds. Mi piace il vento, rispose il signor Meredith. Le giornate senza vento mi sembrano morte, mentre quelle piene di brezza mi svegliano. Di sicuro sa bene che reputazione ho, signorina West. Se per caso dovessi ignorarla la prossima volta che ci incontreremo, non lo imputi alle mie cattive maniere. La prego di capire che si tratta solo di distrazione. Mi perdoni e mi rivolga a lei la parola. Quando entrarono in salotto vi trovarono Ellen West, la quale posò gli occhiali sul libro che stava leggendo e li fissò con uno sguardo sbalordito in cui c'era anche una sfumatura di qualcos'altro. Tuttavia, strinse cordialmente la mano al signor Meredith, che si sedette a chiacchierare con lei, mentre Rosemary cercava il libro. Ellen West aveva 10 anni più di Rosemary ed era così diversa da lei che era davvero difficile credere che fossero sorelle. Era alta e scura di carnagione, con i capelli neri, le sopracciglia folte anche se nere, gli occhi dello stesso azzurro chiaro, quasi ardesia, che prendevano le acque del golfo quando soffiava il vento del nord. Aveva uno sguardo severo e quasi minaccioso, ma in verità era molto allegra. La sua risata era calorosa e gorgogliante, la voce profonda, pacata e piacevole, con una sfumatura un po' mascolina. Una volta aveva detto a Rosemary che le sarebbe molto piaciuto fare una chiacchierata con quel pastore presbiteriano di Glen per scoprire cosa era in grado di dire a una donna dopo essere stato messo alle strette. Questa era la sua occasione, perciò cominciò a bersagliarlo di domande sulla politica mondiale. La signorina Ellen, che era una gran lettrice, stava leggendo un libro sull'imperatore tedesco e domandò al signor Meredith la sua opinione in materia. È un uomo pericoloso, fu la risposta. Sono d'accordo, annuì la signorina Ellen. Mi dia retta, signor Meredith. Quell'uomo prima o poi farà la guerra a qualcuno. Non vede l'ora. E metterà il mondo a ferro e fuoco. Beh, se intende dire che lo trascinerà senza un motivo plausibile in una grande guerra, non lo credo, disse il signor Meredith. I tempi in cui accadevano cose del genere ormai sono passati. Oh no, che non lo sono, ribatté Ellen. Per gli uomini e le nazioni è sempre tempo di comportarsi da idioti e prendersi a pugni. Il regno dei cieli non è poi così vicino a realizzarsi in terra, signor Meredith. Lo sa bene anche lei. E per quanto riguarda il Kaiser, mi dia retta, creerà un sacco di problemi. La signorina Ellen batté enfaticamente il dito sul libro. Sì, se non viene stroncato sul nascere sarà proprio così. E noi saremo ancora vivi per vederlo, signor Meredith, io e lei. Ma poi chi potrebbe stroncarlo? Dovrebbe farlo l'Inghilterra, ma non ne ha intenzione. Chi lo farà? Me lo dica lei, signor Meredith. Il signor Meredith non aveva una risposta, ma i due si lanciarono in una discussione sul militarismo tedesco che durò per parecchio tempo, anche dopo che Rosemary ebbe trovato il libro. Lei, dal canto suo, non disse nulla, si limitò a sedersi sulla piccola sedia d'ondolo accanto a Ellen e ad accarezzare un grosso gatto nero con aria riflessiva. John Meredith parlava con Ellen dei grandi problemi dell'Europa, ma il suo sguardo era rivolto a Rosemary più che a lei, ed Ellen lo notò. Quando Rosemary tornò, dopo averlo accompagnato alla porta, si alzò in piedi e la guardò con aria accusatoria. Rosemary West, quell'uomo ha intenzione di corteggiarti. Rosemary fu colta da un brivido. Le parole di Ellen la colpirono con violenza e tolsero ogni freschezza a quella piacevole serata, ma non voleva farle capire quanto l'avesse ferita. Sciocchezze, disse ridendo con appena un po' troppa spensieratezza. Tu vedi corteggiatori a ogni angolo, Ellen. Stasera mi ha parlato molto di sua moglie, di com'era con lui, di quanto la morte di lei abbia lasciato vuoto il suo mondo. Beh, magari è il suo modo di corteggiarti, rispose Ellen. Ogni uomo ha il suo, a quanto ho sentito dire. Ma non dimenticare la tua promessa, Rosemary. Non la dimentico, né ho bisogno di ricordarla, disse Rosemary in tono un po' stanco. Sei tu che dimentichi che sono una vecchia zitella, Ellen. È la tua illusione di sorella che mi vede ancora giovane e pericolosamente nel fiore degli anni. Il signor Meredith vuole solo essermi amico e forse nemmeno questo. Quando arriverà la canonica si sarà già dimenticato di entrambe. Non ho obiezioni a un'amicizia tra di voi, le concesse Ellen, ma la cosa non deve andare oltre, ricordatelo. Non mi fido dei vedovi. Tendono a non avere idee molto romantiche sull'amicizia, vanno subito al sodo. E quel presbiteriano. Ma perché tutti dicono che è timido? Non mi è parso timido affatto, anche se effettivamente è un po' distratto, così distratto che si è dimenticato di augurarmi la buonanotte quando si è avviato verso la porta insieme a te. Comunque, è intelligente. Non sono molti gli uomini con un po' di sale in zucca da queste parti. Mi sono divertita questa sera. Non mi dispiacerebbe rivederlo. Ma niente corteggiamenti, Rosemary, ricordatelo, niente corteggiamenti. Rosemary era piuttosto abituata agli avvertimenti di Ellen riguardo i corteggiamenti ogni volta che si ritrovava a parlare per più di 5 minuti con qualsiasi scapolo sotto gli 80 anni e sopra i 18. Ne aveva sempre riso con sincero divertimento, ma questa volta le sue parole non la divertirono, anzi la irritarono un pochino. Ma chi lo voleva, un corteggiatore? Non essere sciocca, Ellen, disse con un inconsueto tono brusco mentre prendeva la lampada, dopodiché salì le scale senza dire buonanotte. Ellen scosse la testa dubbiosa e guardò il gatto nero. Perché mai si è arrabbiata, St. George? Gli chiese. Che abbia la coda di paglia? Ma ha fatto una promessa, santo cielo, e noi West manteniamo sempre le promesse, quindi non importa se lui vuole corteggiarla, George, ha promesso, perciò non mi preoccupo. Al piano di sopra, in camera sua, Rosemary rimase seduta per un bel po' a guardare fuori dalla finestra lo scintillio distante della baia, oltre il giardino illuminato dal chiaro di luna. Tutto a un tratto era stanca dei suoi vecchi sogni ormai logori. Nel giardino, i petali dell'ultima rosa rossa furono sparpagliati in aria da un improvviso soffio di vento. L'estate era finita, era giunto l'autunno. La visita della signora Davis. John Meredith si incamminò lentamente verso casa. All'inizio pensava ancora a Rosemary, ma quando raggiunse la valle dell'arcobaleno aveva già dimenticato tutto di lei e si era messo a riflettere su un aspetto della teologia tedesca che Helen aveva menzionato. Attraversò tutta la valle senza nemmeno accorgersene. Il fascino della valle dell'arcobaleno non aveva alcun potere contro la teologia tedesca. Rientrato alla canonica, andò nel suo studio e prese un grosso volume per consultarlo e capire chi aveva ragione tra lui ed Ellen. Si perse in quel labirinto di parole fino all'alba del giorno dopo. Aveva scovato una nuova pista per le sue speculazioni e la seguì come un cane da caccia per tutta la settimana successiva, durante la quale fu completamente assente dal mondo, dalla sua parrocchia e dalla sua famiglia. Non faceva altro che leggere giorno e notte e dimenticava persino di mangiare se non c'era una a trascinarlo a tavola. Non aveva più ripensato né a Rosemary né a Ellen. La vecchia signora Marshall, che viveva dall'altro lato della baia, si ammalò gravemente e lui fu mandato a chiamare, ma il messaggio rimase ignorato sulla sua scrivania a prendere polvere. La signora Marshall si riprese, ma non lo perdonò mai. Una giovane coppia giunse alla canonica per sposarsi e il signor Meredith li unì in matrimonio con i capelli spettinati, in pantofole e con indosso una vestaglia scolorita. A dire la verità, da prima cominciò a recitare il servizio funebre e arrivò fino alla frase «cenere alla cenere, polvere alla polvere» prima di cominciare vagamente a sospettare che ci fosse qualcosa di sbagliato. «Oh, povero me!» disse in tono assente. «Questa faccenda è strana, proprio strana!» La sposa, che era parecchio nervosa, scoppiò a piangere, mentre lo sposo, che non lo era per niente, ridacchiava. «Mi scusi, credo che ci stia seppellendo invece di sposarci», disse. «Oh, perdonatemi», disse signor Meredith come se niente fosse. A quel punto passò al servizio nuziale e lo recitò fino alla fine, ma per il resto dei suoi giorni la sposa non si sentì mai sposata veramente. Il pastore dimenticò inoltre per l'ennesima volta il raduno di preghiera, ma non fu un gran danno perché era una serata piovosa e non venne nessuno. Ma avrebbe dimenticato persino il servizio domenicale se non fosse stato per la moglie di Alec Davis. Il sabato pomeriggio la zia Marta venne ad annunciargli che la signora Davis era in salotto e voleva vederlo. Il signor Meredith sospirò. La signora Davis era l'unica donna in tutta Glen St. Mary che detestava con tutto il cuore. Sfortunatamente era anche la più ricca e il comitato della parrocchia si era raccomandato di non offenderla. Il signor Meredith pensava raramente a questioni mondane e materiali come il suo stipendio, ma i membri del comitato avevano più senso pratico ed erano anche astuti. Senza nemmeno menzionare il denaro, riuscirono a instillare nella mente del signor Meredith la convinzione che offendere la signora Davis fosse un comportamento da evitare assolutamente. Se non fosse stato così, si sarebbe probabilmente dimenticato della sua esistenza non appena la zia Marta fosse uscita dalla stanza. Invece, posò irritato il volume di Ewald che stava leggendo e si incamminò lungo il corridoio, diretto verso il salotto. La signora Davis era seduta sul divano e si guardava intorno con una sdegnosa aria di rimprovero. Quella stanza era in condizioni scandalose, mancavano persino le tende alle finestre. La signora Davis ignorava che Faith e Una le avevano tirate giù il giorno prima per usarle come strascichi regali in uno dei loro giochi di ruolo e avevano dimenticato di riappenderle. Ma se anche lo avesse saputo, non avrebbe potuto muovere accuse più dure a quelle finestre. Le persiane erano crepate e deformate, i quadri alle pareti tutti storti, i tappeti sottosopra, i vasi erano pieni di fiori appassiti e c'era polvere a mucchi. Letteralmente a mucchi. Ma dove andremo a finire? Si chiese la signora Davis con una smorfia arcigna della bocca sgraziata. Quando era entrata aveva visto Jerry e Carl scivolare schiamazzando sul corrimano della scala. Non l'avevano vista e avevano continuato a gridare e scivolare, e lei si era convinta che l'avessero fatto di proposito. Il galletto domestico di Faith trotterellava nel corridoio, si fermò sulla soglia del salotto e la guardò. Quel che vide evidentemente non le piacque perché non entrò e la signora Davis sbuffò sprezzante. Che razza di canonica con i galli che passeggiavano nei corridoi e fissavano la gente con aria sostenuta. Sciò, vattene, ordinò la signora Davis agitandogli davanti il suo ombrellino di seta con i merletti. Adam se ne andò. Era un galletto saggio e la signora Davis in 50 anni aveva tirato personalmente il collo a così tanti galletti che intorno a lei pareva quasi aleggiare l'aria del boia. Adam si defilò nel corridoio proprio mentre il pastore entrava. Il signor Meredith era ancora in vestaglie e pantofole con le ciocche di capelli scuri che gli ricadevano spettinate sulla fronte, ma sembrava comunque il gentiluomo che era, tanto quanto la signora Davis con il suo abito di seta, la cuffia piumata, i guanti di capretto e la collana d'oro sembrava la donna volgare e arida che era. Entrambi percepirono l'antagonismo della personalità dell'altro. Il signor Meredith si ritrasse, la signora Davis invece si preparò alla battaglia. Era venuta la canonica per fare una proposta al pastore e non intendeva perder tempo. Stava per fargli un favore, un grande favore, e lui doveva esserne messo al corrente il prima possibile. Ci aveva pensato per tutta l'estate e infine aveva preso una decisione. E non aveva bisogno di altro, pensò la signora Davis. Quando lei prendeva una decisione voleva dire che la cosa era decisa e nessuno doveva permettersi di aprire bocca. Si era sempre comportata in quel modo. Aveva deciso di sposare Alec Davis e l'aveva sposato. Fine della storia. Alec non aveva mai capito come fosse accaduto, ma cosa importava? Anche in questo caso la signora Davis aveva organizzato tutto a suo piacimento. Doveva soltanto informare il signor Meredith. Le dispiace chiudere quella porta? Disse arricciando lievemente le labbra e parlando con durezza. Devo dirle una cosa importante e non posso farlo in mezzo al baccano del corridoio. Il signor Meredith chiuse docilmente la porta e si sedette di fronte alla signora Davis. Non era ancora del tutto consapevole della sua presenza, la sua mente era ancora impegnata a seguire le argomentazioni del libro di Ewald. La signora Davis percepì il suo distacco e si irritò. Signor Meredith, sono venuta a dirle, esordì con una certa aggressività, che ho deciso di adottare una. Adottare una? Il signor Meredith la fissò perplesso senza capire. Sì, è un po' che ci rifletto. Da quando è morto mio marito ho pensato spesso di adottare un bambino, ma è così difficile trovarne uno che faccia il caso mio. Sono davvero pochi i bambini a cui permetterei di mettere piede in casa mia. Di prendere un orfano che sarebbe con ogni probabilità un poveretto dei bassi fondi non se ne parla, perciò non mi rimangono molte opzioni. Lo scorso autunno uno dei pescatori giù al porto è morto e ha lasciato 6 figli. Hanno provato a convincermi ad adottarne uno, ma gli ho fatto capire che non avevo alcuna intenzione di mettermi in casa un rifiuto del genere. E poi erano tutti maschi. Io invece voglio una ragazzina tranquilla e obbediente, a cui possa insegnare come essere una signora. Una è perfetta. Se qualcuno badasse a lei come si deve, sarebbe proprio una creaturina graziosa. A differenza di Faith, non mi sognerei mai di adottare Faith. Invece prenderò una e le darò una bella casa e un'educazione come si deve, signor Meredith. E se si comporterà bene alla mia morte, erediterà tutti i miei soldi. Comunque vada, non intendo lasciare nemmeno un centesimo a nessuno dei miei parenti. Non se ne parla. È stata proprio l'idea di farli arrabbiare che mi ha spinta a considerare l'ipotesi di adottare una bambina. Una sarà ben vestita, educata e istruita, signor Meredith. Le darò lezioni di musica, di pittura e la tratterò come se fosse figlia mia. A quel punto il signor Meredith era perfettamente sveglio. Le sue guance pallide si colorirono lievemente e una luce minacciosa si accese nei suoi occhi scuri. Quella donna, che trasudava volgarità e ostentava la sua ricchezza, gli aveva davvero chiesto di darle una? La sua piccola e pensierosa una, che aveva gli occhi blu di Cecilia? La figlia che sua madre si era stretta al cuore mentre moriva dopo che gli altri erano usciti piangendo dalla stanza. Cecilia l'aveva abbracciata finché la morte non era giunta a separarle e da sopra la testolina scura della bambina aveva guardato suo marito. Prenditi cura di lei, John, l'aveva supplicato. È così piccola e sensibile. Gli altri sapranno lottare contro il mondo. Lei invece potrebbe esserne ferita. Oh, John, non so davvero come farete, tu e lei. Avete entrambi così bisogno di me. Tienila sempre vicina a te, tienila vicina. Erano state le sue ultime parole, fatta eccezione per quelle indimenticabili che aveva riservato soltanto a lui. E adesso quella donna gli annunciava freddamente la sua intenzione di portargli via la bambina. Il signor Meredith raddrizzò la schiena e la guardò. Nonostante la vestaglia lisa e le pantofole logore, c'era qualcosa in lui che suscitò nella signora Davis un'ombra dell'antica riverenza verso gli uomini di chiesa con cui era stata cresciuta. I pastori, dopo tutto, avevano una certa aura di santità, persino quelli poveri, ingenui e distratti. La ringrazio per le sue buone intenzioni, signora Davis, disse il signor Meredith con un tono tanto cortese quanto terribile e definitivo. Ma non posso darle mia figlia.